Summertime di Elisabetta Fiorito. Ed è sempre la Civetta che taglia per prima la curva del Casato, seconda posizione per l'Aquila che cerca di rimontare. È quasi un testa a testa tra le due contrade. L'Aquila la infila dall'interno. L'ha parata la Civetta, riesce. L'ha parata, sì. Però siamo verso la terza e ultima curva di San Martino. Prima la Civetta. L'Aquila. Buon pomeriggio, ci prepariamo, qui è come mondiali oggi, stasera è un po' come mondiali per noi italiani perché alle 19 siamo tutti con gli occhi puntati verso Piazza del Campo a Siena, perché oggi è il Palio dell'Assunta e quindi siamo tutti molto eccitati, abbiamo sentito la vittoria della Civetta dell'anno scorso e abbiamo in linea qui l'onore di ospitare a Summertime Pierluigi Millozzi, presidente del Consorzio della Tutela del Palio di Siena, nonché priore della Contrada della Torre, perché poi qui bisogna anche specificare assolutamente la contrada di appartenenza. Buon pomeriggio Millozzi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, grande citazione, quest'anno un palio un po' con le polemiche però, io la provoco subito, il palio a 500 anni e dopo 500 anni, almeno nella struttura moderna, no? Perché poi risale addirittura al XIII secolo, e incappa in un ministro del turismo tale Michela Brambilla che dice ma se gli spagnoli eliminano la corrida noi forse dobbiamo eliminare il palio, com'è? Ma diciamo che forse il ministro ha affrontato l'argomento in modo un po' senza conoscere bene effettivamente la realtà di Siena e delle contrade. Che il palio è un po' la punta dell'iceberg della vita che svolgono le contrade, la vita aggregativa e la socializzazione che le contrade svolgono a Siena per tutto l'anno. Sostanzialmente contrada, anche da un punto di vista etimologico, significa rione, quindi è il rione che si riuniva e fra le altre attività che portava avanti da un punto di vista aggregativo, sociale, c'era anche quella della Corsa del Palio, quindi la Corsa del Palio è un po' il punto finale di un percorso. Direi che oggi leggevo un articolo su un quotidiano, non voglio fare il nome, ma insomma si parla di un corteggiamento che dura tutto l'anno, per arrivare all'esplosione. Ecco, senta Millozzi, però la Brambilla sostiene che i cavalli sono sfruttatissimi nel palio, hanno praticamente delle contusioni, insomma addirittura venivano abbattuti, no? Quando cadevano un po' di anni fa, invece adesso, insomma, è un danno per il cavallo questa corsa che ricordiamo viene fatta a pelo di cavallo, senza sella. Senza sella, sì. Appunto, qui anche lei sta parlando al passato, nel senso che effettivamente ci sono dei meccanismi di tutela dei cavalli del palio, c'è un protocollo che ha studiato il comune, perché l'ente organizzatore, lo ricordo, il comune di Siena, quindi si preoccupa della tutela e della selezione dei cavalli, che peraltro proprio perché l'infortunio ci può stare, è stata prescelta un tipo di cavallo più robusto, infatti da qualche anno possono correre soltanto di mezzo sangue, non più il puro sangue, e peraltro ci sono delle visite, dei percorsi di allenamento, allevamenti anche specifici per i cavalli da palio, e il cavallo è seguito per tutto l'inverno, non soltanto nei giorni precedenti il palio, quindi le tutele sono massime. Peraltro è ovvio, l'obiettivo del palio per la contrada è vincere il palio, il drappellone, quindi è ovvio che per vincere il palio l'atleta, cavallo, l'animale deve essere in perfetto stato psicofisico, quindi voglio dire, maltrattare l'animale attraverso il quale vuoi raggiungere l'obiettivo è un controsenso, cioè basta riflettere. Certo, certo, cioè, ma noi siamo qui per provocare. Allora, un'altra cosa invece riguarda le contrade, perché c'è un'estrazione. Quante sono intanto le contrade in totale? Perché ne corrono solo 10, no? Cioè, sì, mi spiega la differenza, perché ci sono due, c'è il Palio dell'11 luglio, poi c'è il Palio del 16 agosto. No, c'è il Palio del 2 di luglio. Del 2 di luglio. Palio del 16 agosto. Il Palio del 2 di luglio è dedicato alla Madonna di Provenzano. E le contrade sono 17 e corrono, come ha detto lei, soltanto 10. Il palio d'agosto si corre il 16 d'agosto e ancora una volta delle 17 contrade corrono soltanto 10. Quindi cosa succede? Che l'anno successivo correranno rispettivamente a luglio e ad agosto sicuramente di diritto le 7 che non hanno corso l'anno prima. Poi l'ultima domenica di maggio per il palio di luglio e la seconda domenica di luglio per il palio d'agosto verranno estratte fra le 10 che hanno partecipato l'anno prima 3 che andranno a completare il lotto per le 10 che poi parteciperanno a quella corsa, a quella carriera, perché ricordiamoci che non è una corsa di cavalli, ma è una giostra il palio. Ecco, ma qual è più importante dei due pali? Scusi, no, assolutamente sono assolutamente uguali. Assolutamente e poi un'ultima cosa sulle contrade, un'ultima curiosità. Essendo Siena non è una metropoli, insomma, non è Los Angeles o New York. Perché, noi non riusciamo mai a capire come si esce da una contrada e si entra in un'altra, perché è piccolissimo lo spazio che separa queste contrade, o no? Sì, talvolta è una strada che costituisce il confine tra una contrada e l'altra, la parte sinistra della strada fa parte del territorio di una contrada, la parte destra costituisce il confine dell'altra contrada. Poi Siena è una città abbastanza piccola, però insomma diciamo che le 17 comunità hanno tratti caratteristici molto, molto sentiti e molto diversi, per cui, ma sempre nella consapevolezza che comunque le 17 comunità poi vanno a formare la comunità unica che è Siena. Peraltro questa suddivisione fra contrade, ma l'unità sotto la balsana bianconera di Siena è rappresentata anche nel drappellone del 16 agosto di quest'anno, in cui ci sono 17 piccole cittadelle che poi in realtà costituiscono la città di Siena. E ringraziamo allora Pierluigi Millozzi, ricordiamo presidente del Consorzio della tutela del Palio di Siena e priore della Contrada della Torre. L'appuntamento è alle 19 questa sera in Piazza del Campo e non abbiamo voluto parlare del lutto che c'è in questo momento al Palio, perché sì, proprio questa notte è successo un incidente, un turista francese, Alain Enfaux, è stato colpito da un colonnino di pietra durante la cena propiziatoria della contrada della Civetta ed è purtroppo morto. Vogliamo ricordare questa persona che era il capo della delegazione della città di Avignone gemellata con Siena e diciamo anche che è stato rispettato un minuto di raccoglimento proprio durante lo svolgimento dell'ultima prova detta la provaccia. Ricordiamo l'appuntamento con il Palio è alle 19 stasera. Grazie infinite. Grazie a voi e buongiorno a tutti, buonasera a tutti. E adesso andiamo a parlare di uno dei grandi classici della drammaturgia italiana, una commedia di Edoardo Scarpetta ambientata nella Napoli dei primi Novecento. Una famiglia di agiati commercianti vede turbata la propria serenità domestica dall'arrivo di un simpatico personaggio che si dichiara un vecchio amico di famiglia. Stiamo parlando dell'amico di papà e sarà questa sera al Giardino degli Aranci Giffoni, Valle Piana di Salerno. Buon pomeriggio a Ciro Rusticane. Io sono il regista della diciamo commedia e quindi ho creato di adattare questa commedia in modo anche un po' personale, inserendo dei personaggi per colorare tutto lo spettacolo. La commedia è ambientata agli anni 50, quindi la scenografia e i costumi sono tutti diciamo adattati a quell'epoca. E sono una serie di gag molto esileranti e diciamo è qualcosa di più della classica commedia degli equivoci. Quindi è un po' una rivisitazione che non è più la Napoli dei primi Novecento, ma la Napoli del 2000? No, noi abbiamo tenuto fede, diciamo, all'ambientazione di quell'epoca, soltanto abbiamo aggiunto dei momenti più particolari, molto più divertenti, proprio per cercare di creare ancora più più gag nella commedia stessa, però è tutto, diciamo, rimane fedele a quell'epoca, infatti la scenografia è di quell'epoca e anche i costumi e anche poi naturalmente i modi di vivere di quell'epoca, ecco. E invece c'è Laura Rusticane, che ruolo interpreti, Laura? Allora, il mio personaggio si chiama Cecina, è una delle serve della famiglia Ciaramella, quindi uno dei protagonisti della commedia. È un personaggio un po' particolare, voluto ed aggiunto dal regista per creare una sorta di contrasto col modo d'essere degli altri personaggi. Sì, perché Cecina è un po' goffa, è un po' lenta nei movimenti, vive in un mondo tutto suo, ma è proprio questo suo modo d'essere e poi l'interazione con gli altri protagonisti della commedia che crea momenti molto divertenti e battute esilaranti. Ecco, quindi è una commedia un po' degli equivoci, Ciro, ma qual è un po' la morale? Perché noi sappiamo che Edoardo Scarpetta poi... La morale è che alla fine chi vuol fare del bene, cioè, come punto di domanda, riesce sempre nel suo intento, perché c'è l'arrivo di questo amico di papà, ecco, Don Felice Ciosciamucca, che cerca di dare una mano a questo vecchio amico del padre, ma alla fine crea tantissimi equivoci, che la commedia finisce con tre diversi finali, naturalmente tutti a discapito della famiglia Ciaramella, e poi naturalmente sarebbe bello venirla a vedere per poi rendersi conto di tutto quello che può trasmettere questa commedia molto ben scritta e molto ben rappresentata. Perché Scarpetta è ancora, diciamo così, rappresentato dopo 100 anni? Qual è il segreto di questo scrittore, di questo commediografo? Il segreto è che nei suoi, diciamo, scritti c'è molto di quello che si riflette anche nella società contemporanea, oltre a dei momenti molto particolari che, visti anche in un'ottica teatrale, casomai leggendo soltanto il testo, non danno poi quella particolare verve che appunto fuoriesce poi dalla rappresentazione, ma riflette molti momenti comici che alla fine sono anche, diciamo, di tutti i giorni. E quindi Scarpetta è uno dei testi che ancora oggi in tutta Italia è ben rappresentata, e i registi sono i primi a scegliere appunto i propri testi per portare, ecco, uno spettacolo vivo al pubblico. Quindi, insomma, una commedia a tutto campo, un evergreen, come ci dice Ciro Rusticane. Ringraziamo Ciro e Laura Rusticane, l'amico di papà, la commedia teatrale Tandem, la compagnia teatrale Tandem, che questa sera si esibirà ai Giardino degli Aranci, Gifone, Valle di Piana, Salerno, giusto? A che ora? Alle 21. Poi andate in giro durante quest'estate? Riprendiamo a settembre. Dove? Riprendiamo a Vallo e poi continuiamo nella Vallo della Lucania, sempre provincia di Salerno, e poi continuiamo per, diciamo, con delle repliche. Edoardo Scarpetta, interpretato da Ciro Rusticane, grazie. Una buona giornata, grazie a voi. Arrivederci. Summer Time. Cosa fare adesso? Come riciclarsi? Avevi una strada dritta e ben delineata. Adesso ne è una dissestata e con svincoli per te inaccessibili. Come rendersi utili in questa nuova identità? Cosa hai perso? Cosa hai guadagnato? Mio scuro traguardo, mi auguro di arrivare stanco a capolinea, ma con la consapevolezza di aver sfruttato al massimo tutte le possibilità che la vita mi offre. Sarà sufficiente sapere che sono stato solo di passaggio. Non ti ho sentito. Non ho sentito che volevi aggredirmi col tuo fare silenzioso e tradito. Pensavi di abbattermi con facilità, e invece ho trovato un avversario che si è piegato ma non si è spezzato. Lo so, l'ho capito subito che mi avevi privato della gioia di camminare, ma non sei riuscito a fermare le mie idee e i miei pensieri. Hai limitato il mio corpo, mi hai bloccato, e così cambiato il mio orizzonte. Adesso, adesso sì, vedo ciò che prima mi era nascosto. Sono partecipa al dolore, lo conosco e l'affronto. Non farò mai un passo indietro. Giorni rubati è un punto di partenza, una creazione di un lavoro molto molto particolare, fatto dopo un terribile incidente di un giovane operaio. I testi sono di Gianmarco Mereu, la regia di Silvia Cattoi. Stiamo parlando ovviamente di teatro, Teatro San Francesco a Tortoli, per la rassegna Sguardi sul presente. Buon pomeriggio a Yuri Piroddi, che interpreta chi in questo spettacolo? Buon pomeriggio, interpreto me stesso e anche un operaio, faccio la parte di un collega di Gianmarco. E poi Gianmarco Mereu, che è colui che ha scritto i testi e che ci racconta questa storia che è importante raccontare per non dimenticare, giusto? Sì, sì, giustissimo, giustissimo. Allora, racconta un attimo questa storia a Gianmarco, come ti è venuto, che cosa è successo. Praticamente circa 4 anni fa mi accingeva ad abbandonare il cantiere dove lavoravo e ho chiuso un cancello scorrevole. Questo cancello non era fatto a norma, non rispettava le norme, non aveva un fermo di sicurezza. Questo cancello, mi sono girato e mi è caduto addosso, pesante ben 600 kg, e mi ha procurato una frattura midollare e mi ha costretto così alla paraplegia. Ecco, quindi un incidente, tu hai subito un incidente sul lavoro, quello che viene volgarmente detto come incidente sul lavoro, che però non viene poi mai rappresentato, no? Noi le leggiamo sui giornali e invece... Facciamo che in questa casa, in questo caso invece di essere una morte bianca è una morte grigia, mettiamola così. Ecco, una morte grigia, perché tu sei costretto da quel momento a stare su un sedia a rotelle. Sì. Però che hai fatto? A un certo punto hai deciso di scrivere questa storia, di denunciare quello che ti era capitato, di non rassegnarti, di far sì che altre persone non subiscano la tua sorte. E da qui è nato Giorni rubati. Sì, è nato in questo modo. E dopo aver subito l'intervento, con i dolori che potete immaginare, ho scritto delle riflessioni, delle poesie. Così poi con Yuri, che ci conosciamo da più di 20 anni, parlando così, gli ho mandato un'email e mi ha detto, guarda, lui che si occupa di teatro da parecchio tempo, mi ha detto, guarda, vieni giù, ci vediamo un po' a teatro, vieni che secondo me si può fare qualcosa. Piano piano, in svariati mesi, abbiamo... con le loro brillanti idee, unite alla mia voglia di denuncia, alla mia voglia di far conoscere questo mondo parallelo anche a chi non lo conosce purtroppo, con l'umiltà di mandare un messaggio, non con la velità di un attore, perché non credo in questo, però abbiamo, grazie al loro impegno, grazie al loro aiuto, siamo riusciti a fare questo spettacolo, che poi si può criticare anche sotto un punto di vista artistico, perché si può migliorare sempre, ci mancherebbe altro, ma il messaggio che lancia è talmente chiaro e semplice che ha bisogno di pochi commenti, di poche critiche, va accettato e noi lo esponiamo con tutta l'umiltà possibile. Yuri, tu interpreti l'amico di Gianmarco, no? Io interpreto la figura di un operaio che, al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare, non è cosciente di quello che sta accadendo nel mondo del lavoro, di quelli che sono i rapporti di forza nel mondo del lavoro, e che quindi guarda con gli occhi con occhi crudeli quello che è capitato a un suo collega, quello che potrebbe capitare anche a lui il giorno dopo, però lo legge con occhi veramente dell'invidia, della crudeltà, per cui, o anche del pietismo, per cui dice poverina in sedia a rotelle, però sai, tutto sommato c'è una bella pensione. Eh sì, poverino, adesso soffre tantissimo, non può più camminare, però insomma si è fatto una bella macchina, no? Tutto sommato, via, un lavoro al figlio glielo trovano. Insomma, questo continuo andare e venire fra pietismo peloso, bruttissimo, e invece crudeltà, invidia, e che è quello che capita, che è quello che sentiamo nei bar, nelle strade, nei luoghi di lavoro, quando si commentano certe notizie. Quindi non abbiamo voluto assolvere nessuno, né i datori di lavoro né tantomeno gli operai, che dovrebbero essere estremamente consapevoli di quello che sta accadendo nei cantieri, nei luoghi di lavoro, e invece sono due volte vittime degli incidenti, degli infortuni, ma anche vittime della loro stessa ignoranza certe volte. Quindi mettiamo in discussione proprio tutti, il sistema appunto del lavoro, ma anche le forze produttive, quindi i datori di lavoro e gli operai stessi. Giorni rubati, testi di Gianmarco Mereo, una persona che ci dà coraggio malgrado quello che ha subito e ha il coraggio di denunciare un teatro civile. Sarà a Ruinas questa sera in piazza Anfiteatro alle 22, poi al teatro civico di Cagliari l'11 settembre, a Macomer il 9 ottobre. Insomma, è uno spettacolo itinerante, vero Gianmarco? Per tutta la Sardegna, ma speriamo di vederlo anche in continente, si direbbe così. Sì, noi ci teniamo a farlo vedere, soprattutto teniamo a formare soprattutto i giovani, che sono giustamente, come lei sa, quelli che saranno la società dopo di noi, ma noi non ci precludiamo nessun obiettivo. Vorremmo portarlo fuori, questa sarebbe una grossa conquista da parte nostra, solo che lei immagina, insomma, che andare fuori per chi come noi al mare di mezzo è un problema, bisogna unire svariate date. Grazie. Allora, Giorni rubati, un testo di teatro civile che denuncia gli incidenti sul lavoro. La strada è il loro mondo, con le sue avventure straordinarie, i suoi incontri favolosi o patetici, i suoi drammi sconosciuti. E questo era l'incipit della strada di Fellini, lo sappiamo, il capolavoro di Fellini, Zampanò, chi non ha sognato le avventure di Zampanò, anche avventure cruente, ma per trovarci in questa atmosfera un po' dobbiamo andare in provincia di Cuneo, dove da ieri si è aperto il Festival del Teatro di Strada, e che è attualmente in corso proprio adesso, perché è partito oggi anche alle 16 fino alle 23, perché è un teatro di strada che rappresenta un'espressione artistica di grande interesse. Abbiamo moltissimi artisti che si esibiscono, penso mimi, clown, trampolieri. Allora, Marco Donda dell'associazione L'Albero del Macramè, che è quello che ha organizzato questa due giorni a Limone, Piemonte, in provincia di Cuneo. Buon pomeriggio, ho detto tutto? Buon pomeriggio, grazie. Siamo qua dopo un giorno di spettacoli, gli artisti sono tutti carichi e il pubblico di Limone Piemonte, che è veramente numerosissimo, sta apprezzando pienamente le attività che sono svolte su nuove piazze. Abbiamo cercato di fare contenti un po' tutti, perché abbiamo allestito degli spettacoli di grande illusionismo per le persone un po' più mature, di clown da strada, di magia con i bussolotti, maghi comici per i bambini, e soprattutto una zona con il nostro Ludobus, il Ludobus Macramè, che permette a tutti i bambini presenti, attraverso i giochi della tradizione e dei laboratori aperti, di guardare da una parte gli spettacoli promossi dai professionisti e dall'altra parte provare immediatamente, attraverso dei laboratori aperti dei nostri insegnanti delle scuole di circo, a provare a usare le clavette, camminare sul filo rigido. Quindi è un festival molto attivo anche da parte della popolazione, diciamo, dell'utenza. Ecco, il teatro di strada è caratterizzato più che altro non dalla parola, ma dal gesto, dalla pantomima, dall'esibizione degli acrobati, no? È un po' un teatro circense, se vogliamo dire. Certo, infatti abbiamo il clown Drillo, per esempio, che si esprime dicendo una parola ogni spettacolo. Poi abbiamo Otto Panzer. Si sta sprecando il clown Drillo, una parola solo. Si sta sprecando, perché lui rigorosamente parla con la gestualità del viso, e questo è ciò che insegniamo anche nelle nostre scuole di circo, ai nostri allievi, che vanno dai 6 ai 12 anni e fino ai 16, poi li abbandoniamo nell'età adulta. Sì, è un'espressione corporea accompagnata da parole, ma come si sa, la cosa divertente è che questi personaggi enfatizzano le loro caratteristiche al massimo, le esagerano, offrendo davvero una panoramica di emozioni totale. Quindi siamo in mezzo a questa situazione che sembra quasi surreale, perché Limone Piemonte è un paese piccolo, molto importante, perché comunque siamo vicini alla Francia, ma le nove piazze si raggiungono da una all'altra con 3-4 minuti a piedi, e quindi siamo letteralmente invasi in questo centro storico meraviglioso da questi strani personaggi che interagiscono col pubblico continuamente. Quindi è un festival che si rinnova ogni anno? Sì, questa è la nona edizione ed è la prima volta che abbiamo la fortuna di avere la direzione artistica noi, che non ci occupiamo solo di organizzare festival, ma di promuovere attività ludico-didattiche per i minori. Abbiamo 4 scuole di circo nel Morigallese che gestiamo autonomamente, facciamo animazione con il Ludobus e lavoriamo nelle scuole elementari e medie e facciamo formazione per animatori ed educatori. Quindi siamo dei direttori artistici un po' particolari. Infatti i nostri ragazzi hanno anche degli spazi per potersi esprimere di fianco ai professionisti, quindi i professionisti hanno anche occasione di vedere i piccoli cosa stanno imparando e i piccoli chiaramente di vedere quello che potrebbe essere il loro futuro artistico. Allora ricordiamo, è in corso e finirà questa sera alle 23 a Limone Piemonte in provincia di Cuneo il Festival del Teatro di Strada, in collaborazione, come abbiamo sentito, con l'Albero del Macramè e con Marco Donda, che ci ha spiegato che il clown drill addirittura si spreca, dice, una parola a performance, perché l'importante nel teatro di strada è l'espressione del viso, è la pantomima, e non è certo la parola un modo di vivere l'arte in strada e con il sorriso sulle labbra. Grazie Marco. E buon proseguimento, grazie mille. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it o che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it e vedere che cosa succede in serata. E allora buona serata a tutti.